se ne sa, uno che si assedia, niente. Sono tutti uguali. Catafusano l'altro giorno stava insistendo che le lampadine da 12 volt non ci sono col filo attaccato. Dico, ma siete sempre presi, cosa sta dicendo? Non esistono, ci sono solo lampadine con i due piedini, ti ho detto che ci sono anche quelle col filo attaccato. Guarda la GPC se la trova. Adesso le ha finite, no, però la GPC ce le aveva, io ne ho una che l'ha portata, se la vuol vedere. Che non esistevano, che stavo facendo fesserie, ma lettere, ti ascolti? Non me le dica, ma cosa scherzano a me, se io vado in un altro negozio, gliela compro e me la porti qua e me la faccio vedere che ha 12 volts, ma me la fanno così. Il vecchio di Fusari. Ero in casa, mi ha detto, se aveva voluto puntare la via ricca, ha detto, quanto scommette? Le la porto subito. No. Non ne comprendono accidenti, non ne comprendono. È tu Vittorio, no? E che tu ne comprendi che vedrente sono un abbassone, Antonello. Ma infatti. Ma cade il sistema che c'aveva i piedini, ci sono anche quei piedini, ma io le compro quelle col filo, mi sono più pratiche, perché io devo arrivare a un certo punto e quei piedini non ne faccio nulla, se non sono vicino a quei piedini cosa te ne fai? Non fai nulla. Ti dà buona supporta, Edo. Oh, mamma mia, cazzo, meglio niente. Quelle coi piedini, se devi attaccare al circuito è un conto. Però, solo se devi attaccare al circuito è buono. Cavagava. Sono qua, Giuseppe. Mi senti? Oh! Quindi è tutto Cavagava. Oh. Su che andiamo, ragazzi? Come ti sto arrivando con un milliwatt, caro Antonio Bombolo? Sei Santiago 8 qua. Cavagava, un milliwatt qui nel mio portatilino. E da 6 anni? Quasi 9. Cavagava, va bene, quindi posso continuare a mangiare. Grazie del controllo, ci sentiamo qua. Vai piano, vai piano. Non mangiare troppo. Gabagava. E Giuseppe. Gabolo, si attacca la prolunga già il tengo. Già. Ehi. Qua, ma Antonino non arrivava qua. No. No, perché sicuramente c'è tutti gli ostacoli, insomma. Magari lui sente a me, ma io sento a lui. Gabba. Avendo libertà nel palazzo si perde, invece tu sei libero e tutto libero lo senti, tutto qua. Ma un motivo ci deve essere anche. Certo. Però se lui lo mette, se lui attacca l'antenna grande anche con un millipat qua arriva. Ma se attacca non è più un millipat. Sempre basso. Lo so, ma dirà di più. No, è poco. Quando è così. Sì, vabbè. Da tutta la libertà del coso, del segnale. Però devi contare anche una cosa che. Vaffanculo, faccio il segno. Ma fatti dita, c'è un filtro anti-TV, ti interessa? Filtro anti-TV. 8 euro. Cazzo. Ma io ti vuoi non ne faccio. Metto che disturba per tua nonna. No, è lei che disturba a me. Ah, perché c'è lineare. Ma tu non prendi quella parecchia giù. Lineare. Cosa scherza? Cazzo, magari, che Dio ti senta. Te lo prendi l'apparecchio già. Vale. Quello che hai visto in internet è quello da 98 euro. 99 più spese spedizione? No, ancora no. No, ancora no. In là. Cavagava. Ma è pagamento? No, quello lì, lo telefono, a me mi ha chiamato un apparecchio, non mi manda a pagare quando ti arriva. Ma io gli ho già preso un apparecchio, l'ho pagato così, l'ho convinto. E non mi ha fatto pagare manco le spese spedizione. Cavagava. È ben buono. quindi posso sempre chiedere, lui già si fida di me. Antenna mobile 27 MHz, turbo 2000, stile d'acciaio. Quanto ha di coso, di lunghezza? Aspetta, costa 25 euro. Compra subito, aspetta. 1,40 m. È alto. È sempre meno di 2 metri. È grande. Allora, 2 metri. 1,40 m. Oh, guida. Quale guida? La mia? Sì. No, la... quella che c'è a Giuseppe. E non se ne ho 2 metri. Uguale. E quelli sono 2 metri, sì. Sono 2 metri. C'è la 1000. Giusto. Comunque l'antenna più è alta, la più è più orrenda, ve lo puoi dire, la 9 grigio che tenga. Questa qui è buona, è la Sigma, quella lì che ho io è buona, però non è mai a livello della 2001. Sigma, la piace di 1000. Se vi interessa c'è un Alan 48 by Micio, modello Old No BSX, per la modica cifra di 680 più 12 euro di spedizione. Attaccatela al Q, dimmi così, attaccatela al Q. Attaccatelo signore. Cazzo, 600 euro. Ehi, chi parlo via a sé quando lo stava scrivendo? Cos'è che suona il 48 d'oro? L'efficacia. Ma 600 euro su 700 euro, eh? Chiaro. Fino a 400 possiamo... possiamo andare da qua, ma 700 euro lo cacciano un patrimonio. Ne hanno venduto anche 500. Lo so, però... alla fine... secondo me più di 300 non si dovrebbe pagare. E l'ho pagato caro, già ci sgobano su queste cose. Già c'è il lavoro e anche sì, cioè, ma se noi fate tutto, allora fate tutto con un apparecchio del genere, dai, non prendiamoci in giro. Io lo so, me, lo sap- io ho saputo i prezzi, fatto, è tutto, è fatto tutto, completo, guarda, massimo, ma guarda, sto esagerando, 250 euro, cioè, ma neanche, sto proprio esagerando. Non so cosa dire, comunque li fanno così, i prezzi sono quelli, non è che c'è da sbagliare anche tu. Sto parlando un po' qua in giro, non riesco più a uscire, ma un attimino solo, vi ripeti Giuseppe? Un attimo che ho la bocca piena. Ma guarda, sto parlando di baracchino e tutto anche, baracchino e tutto, non sto parlando di modifiche. Cioè, per fare quelle modifiche adesso con queste cose qua ci stanno guadagnando in 1000 per 1000, cioè ci stanno facendo un sacco di soldi, si stanno ricavando da questa roba qua. Purtroppo se lo vuoi così costa così, se non lo vuoi così lo prendi normale, t'arrangi come te li dici. Infatti io non la prendo, qua sono così carino, non mi guardo nemmeno. Ma comunque, Antù, c'è la gente che è appassionata, ci sono gli appassionati che si pigliano le macchine vecchie, se le rifanno, ci spendono una barca di soldi. Se poi le vogliono modificate, le farò pagare di più, con cerchi in lega, rotte larghe, tipo 500, 600, roba così. Pagano una barca di soldi queste cose qua, eppure sono cose vecchie, ma c'è gente che li piace. Sì, no, è che a me non piace nemmeno a testi, e sono fanatico di queste cose qua, però io ci penso anche dopo e dico, ma guarda queste testine di merda quanto ci guadagnano. Perché è così, cioè, loro hanno il guadagno a 1000 per 1000, è inutile che siamo lì a girarla, e queste cose qua, Seppure io sarei stato bravo a fare questi lavori, cioè avrei guadagnato quanto loro. Antonio si dice testine d'agnello, bravo. Capito, Giuseppe. Ho detto che si dice testine d'agnello, che sono senza cuffie. Io li avrei chiamati teste di legno. Ti ho detto qualche parolaccia. Yes, Antonio. Sì, sì, ho sentito anch'io. Oh. Forse l'ho detto, ma può essere merda. Yes. Vabbè, non è una parolaccia, la fanno tutti la mattina, la sera, tutto il giorno, non ho detto altra parola. Vagava. Adesso passiamo al budino. Giuseppe, stai buttando via tutte le camminate che hai fatto. Guarda, domani riprendo, a domani scendo a piedi. Lo sai che c'è tutte le braccia bloccate, Giuseppe? Come mai? Da quel colpo dello sportello il braccio e l'altro che ho fatto uno sforzo, ho portato un roll carico di roba su, l'ho tirato su con il mio collega e ho fatto uno strappo. La miseria. Andiamo bene. Armano il cazzo, ha cipigliato una righiti, una tambainata di righiti micidiale. Ne ho visto uno in piazza Castello una volta, Giuseppe, stavo guardando questa ragazza, ci sono quei pali più bassi, ha preso tutte le palle, ogni aggo e poi ha detto proprio lì, io. Quella ragazza si è detto, non me ne impari a guardare, porco. Ma a casa non è andato male allora, mi. Roba di figura, ti ho fatto. Ogni aggo e poi si è pigliato. Tipo fantoso. E uno in via Coso vicino al mercato, in via San Francesco, lì c'era il semaforo prima di decote. C'era il verde e stava passando questa ragazza in binigona, questo qui ha cominciato a dirle cosa. Normalmente scatta il rosso, la macchina si ferma, chi su cazzo bello dice che si abbiti da bugna goi. Quella almeno impari. Io una scena del genere l'ho vista di pronto i vigili del fuoco e una ragazza, una tipa era, e buona buco, era con quei calzoncini con lo spacco piccolino ai lati delle cosce, no? Era una bella, proprio veramente una bella ragazza. Questa qua col 127, no? Era mezz'ora finestrino aperto, fischiando e coso. E si ferma la fila davanti a lui, cazzo si intende, BADUBU! Cazzo mia figura, tutta a terra, tutto il muso se ne ha buttato giù. Sai chi c'era la ditunda? No, quella ha continuato, stava sghignazzando, no? Ed io ero in moto, stavo salendo a casa e figurati lavoravo lì, via San Farino, nell'officina. Cazzarola, cazzo, ma una bomba! Cerché ci è arrivato proprio pieno, pieno. Cazzo, così impara. E anche quello lì, quello che stava facendo cosa con il San Francesco, non ha fermato niente, no? Si è girato solo quando si è detto il tocco. E quello lì, almeno impari a guardare, ti sta bene. Ma gli stava dicendo tutte cose strane. Era di chi si mezzo maniachelli. E del tipo, affatta, abbona. Non gli ho detto. Perché io stavo passando a piedi nel marciapiede dietro con la ragazza e gli ho detto nulla c'è per il biscottino. Mazzarola, sì, una bella tamponata. Che lo dico tu, cazzo, se qui sei talmente impari, porco. Ehi, non conviene mai non fare queste cose. Oi. Andà bene. Allora. Domani si ricomincia. Ma che se nulla c'è per il biscottino? Ti vedi che ne hai tirato? Lui l'aveva detto. E su quasi un'ora sola ti vorrei per farne 4, 5 o 6, cantava le ragazze. Quello Marco chi stava in Piazza Castello, un giorno ne ha visto una con la Nuova Sardegna e gli ha detto con la Nuova Sardegna e questa è l'Unione Sarda, si è toccato. Carità. Quindi di solito che si maniaci. Quella che sei lo bianco, lo mate si stava sempre in piazza detto di cosa che mi finta. Secondo che c'è un pezzino mezzo accelerato che fuma la giusta, voglio via. Che pagava. Vabbè, c'è di questa gente qua che c'ha, io non sono mai stato così. Da ragazzo sì, cercavo di attaccare, ma come fanno tutti, come fanno i piccioni con il piccione. Oh, se sarà mai uscire dai ganghi. Comunque chi sa che abbiamo fatto troppo ridire. Che pensi che l'Unione Sarda? Oh, e una volta stavo andando a presa queste ragazze dal ragazzo. Questa qua si gira e mi ha detto vai gallo! E io, gallinella mia, facciamo le uova. Non bisogna mai essere volgari quando si fanno gli apprezzamenti, gaba gaba. No, e si bacia in qua, sarà rifuttito via. Già in curva, ti torno per maiale, boh. Cappa, siete in cuffia? Yes. Bisogna essere bravi, bisogna essere... Tu no, Giuseppe, lo sai che queste sono le ore proibite. Bombolino. Bombolino. Yeah. Mettiti le cuffie. No, non ce l'ho l'adattatore, Giuseppe, mi dà fastidio. Non hai l'adattatore, ai ai ai ai. Ma no, nel baracchino o là? No, nel birichino. Non ce l'ho l'adattatore, no. Ti ho capito, non hai? L'adattatore, me lo devo comprare. Ah, compratelo, cavolo, servono le cuffie, servono. La fregata. E adesso non ce l'ho, domani vado da Fusano e me lo compro. Già ci vuole, dai, già ci vuole, perché molte volte anche d'inverno le cuffie non tanto per sentire ma quanto per mantenere le orecchie calde. Cappa e cappa. Io ti dico la verità, l'avevo smarrito l'altro giorno, sono andato a Porto Torres, se non ne aveva nessuno, poi sono andato a questo qua, mi detto sì Cerioli, adattatori da stereo a mono, attacco piccolo, ho detto vabbè, ho preso questo adattatore, avevo a casa, era troppo fino. E chi ha nei quattro? Ha dato l'altro modello. Quello con l'attacco più sottile, io non ci ho fatto caso. Come va bene al cellulare? Io l'ho preso alla CPC. CPC? Alla CPC e l'ho trovata al primo gore. Lo sai che a volte li trovi difettosi? Li trovi un bel difettosi che praticamente si muovono e senti solo da una parte, non ti è mai capitato? Ma la CPC? Aia, addirittura ci ho provato anche in questo qua di Via Rosello e non sapeva manco che cos'erano. E tu li devi dire, la cattura di Jack. Cioè riduttori, non adattatori, riduttori da stereo a mono. Iae, vabbè, mai solo perderci tempo con quello. Sanno manco dove sono la testa. Prima c'era Gasperini, era un bel fornito, quello lì ne conosceva un bel di roba. Eia, ascolta, se ti interessa quello di Via Rosello ha un buon alimentatore, a poco prezzo. Alimentatore c'ha? Un Intec. Di 50 anni fa. Eia, a buon prezzo, mi pare ne vo 200 euro. Non mi parli di... E infatti il giorno gli ho detto in che mano li voleva. Da quanti ampere? Da 1000 ampere? Ma che da 1000 ampere? Sarà da 30 ampere se vi so pur. Mi è sembrata Lucrezia, tu sì. Non c'è. Era da 10 ampere, indovina che coraggio ha avuto di mettere il prezzo. Oh, parlo di usato. Su eBay. ha messo un alimentatore da 10 ampere usato. Indovina che prezzo ci ha messo? 98 euro. 50 euro più le spese di spedizione. Ah, senta che acuto. Allora, io ho comprato questo della elettronica, la cosa da Fusaro, è 10 ampere, e l'ho pagato 99 euro. Buonasera. Ciao Lu, io ti ho chiamato, non si riesce a capire. Sono in compagnia di Giuseppe di Bombolino. Stavo dicendo, l'ho comprato e non ho fatto male, perché ti dico la verità, fa il suo lavoro, non si divara, è un bel alimentatore. Eia, eia, ciao Luca da parte mia anche. Sì, già, hai perfettamente ragione. E io ti posso dire che col mio, quello che ho preso ultimamente, quello da 32, guarda, è un bijou. Sì, sì, ci credo. Guarda che ce l'ho anche io da 30 ampere. E va benissimo, ce l'ho parecchi anni, ti dico la verità. Infatti è fuori produzione questo che c'ho io, però un bel bello, c'è un attacco a cenicina lì, quando devo andare fuori io tanto l'attacco lì lo faccio caricare lì, di modo che poi macchina non abbia tutti questi fili volanti, capito? Già va bene. Voglio una cosa, allora, quello di Verosello, la farmacia, non puoi andare a comprare niente lì, capito Gesù? No, ma io entro per farmi due risate, quando un po' di tempo da perdere, no? Magari so che devo andare, non so, a fare una commissione ed è presto, entro lì a fargli perdere un po' la testa. E ogni volta gli chiedo di quell'alimentatore. Ce n'era Giuseppe, uno anche dietro l'edicola in via Turritana, ce l'è presente? Ma di Corso Trinità. Corso Trinità, a che altezza? Illuminami. Caponato. Alla resa sedicola. Ma alla fine del corso. Su Trinità, non il corso. Via, corso Trinità, lo so, l'edicola è lì a fianco ai posteggi del mercato. Esatto. Un po' prima, no? Più giù. E più giù rimane. E dietro l'edicola c'era questo negozio che non so se esista ancora, vendeva baracchini, tutta questa roba qua. Ma non credo che ci sia, perlomeno. L'ho visto sempre tutto chiuso lì dietro. Comunque, cioè, ciò non toglie che, nonostante tutto, per la popolazione che siamo, qui a Sassari siamo veramente messi male a negozi di coso di elettronica, perché togli queste due cazzatine che abbiamo, dipendiamo tutti quanti da internet. Qui non c'è mercato, Giuseppe, non in Milano neanche non c'è mercato, e quelli che c'erano vendevano la roba 30 volte di più di quella che costa, tipo quello delle conce che adesso è dove c'è la tua ordinare l'antenna, quello con cui hai parlato, quello lì ti faceva pagare su ogni pezzo la spedizione, lui pagava la spedizione per 50 pezzi, a te te la faceva pagare per ogni pezzo, voleva guadagnarci 50 volte di più, in più faceva prezzi astronomici. Beh, casi, i furbi ci sono da tutte le parti. Adesso vediamo in settimana, gli do l'ultimatum, dopodiché mi siedo e faccio di testa mia, faccio come ho fatto sempre. Infatti, l'unica è Giuseppe. Cava, anche perché, poi ripeto, ho anche quell'altra commissione da sbrigarmi e poi non so anche se domani sera devo passare là, mi hai capito? E quindi mi faccio un giretto e ne la pisuleggio subito. Guarda, è molto caro quel cattivo negozio, ma caro, è caro. Poi sono andato anch'io a chiedere un alimentatore normale, però senza strumenti, senza niente, voleva 70 euro. Via, Eia, Ollu, ma stiamo scherzando. L'ho preso io, guarda, mi è arrivato qua, sarà un paio di giorni. L'alimentatore nuovo, l'ho preso da 32 ampere della Proxel con lo strumento, e ho pagato 68 euro, Luca. Ma qui siamo a livelli di vergogna, qui in Sardegna siamo a livelli di vergogna veramente, cazzo, perché un coso da 10 ampere già te lo fanno pagare 60 euro. Via, te lo sto dicendo. E vabbè, lui sicuramente sarà fatto qualche giro qua, penso, boh, sarà informato da qualcuno che non ce n'è, ecco perché te lo pagare così caro. Però lui non si rende conto che comprandolo fuori compri un alimentatore, diciamo, superiore, ti fanno giù i conti anche di meno. Eia. Tu figurati che io fuori, ho comprato una... hai presente l'accendisigari? E dietro ci sono due cose per attaccarlo alla spina, è come una presa, non soltanto che fa l'accendisigari. Sì, sì, ho capito. Questo qua è 32 ampere. Eia, l'alimentatore che ho preso io, 32 ampere. Ma ti dico che è bellino come alimentatore, è uno switching ed è un bijou. Un bijou, Giuseppe. Contenti tu, contenti tutti, dai. Gappa, gappa. Avanti, Bombos. Gappa. Anzi, sta parlando della trattenza di burro quello, cara. Da canto pulita, questo alimentatore. Ma quanto lo volevo io? Sì. 15 ampere mi sembra che era. Ma va, 70, 80, adesso non lo ricordo. Oh, lui. Oh? Era uno da coso, da Melchioni, che era un bel grande. Ecco, da quanto è questo alimentatore? 30 ampere. E quanto costa? 300 euro. Ma era enorme, era bellissimo come alimentatore con gli strumenti grandi, tutto qua. A 300 euro, 289, una cosa del genere. Ma se ne dico, ma siete rocchi. Aspetta un attimino, scusate un attimino che c'ho qualcosa che non va qua, aspetta. Non so se ce l'abbia ancora perché l'ho visto un po' di anni fa, ma penso che non l'abbia comprato nessuno a quel prezzo. Penso che ci faccia la sua figura ancora in vetrina quell'alimentatore. Che paga. Stasera Giuseppe stavo facendo un lavoretto e invece mi è partito. Mi si era rotto quel supporto che si mette il computer sopra, io c'avevo quelli tutti illuminati, con le ventole illuminate, ecco. Mi si è spaccato in due quelli. E allora le ventole le ho tolte, ho guardato da quanto erano, 5 volts. Io da 5 l'alimentatore non ce l'avevo. Ho guardato un trasformatorino, dicevo 7 ampere. Va, 7 ampere, 7 volts. Avevo preparato tutto per attaccarlo a raffreddare. A far raffreddare gli apparecchi, cosa? Vado a metterlo, gira un bel, alla fine si sente che c'è un fiago di fumo, boom, e mia moglie, cavali tutto, sono sciolto così. Oh, Sarola, ecco che cos'era il botto che si è sentito stasera. Ma non è copiato, è un fiago solo che sentì. Ma era bellino, ma c'era la lucetta sopra, si vedeva tutto quanto illuminato di blu. Gianni, tu ti ho detto, ti devi prendere quell'alimentatore, piccolino come ce l'ho io, te l'ho fatto anche vedere un giorno qui a casa, se non mi ricordo male, e quelle ventoline, stai tranquillo che te le mettevi a girare come volevi tu, anzi, se aspetti un attimo, allora, vediamo un po', eccolo qua, eccolo, guarda, ce l'ho proprio qua, eccolo qua, l'alimentatore piccolino. Quale piccolino? Quello che fa il termostato? No, questo è un alimentatore, sembra un caricabatterie di telefono, soltanto che parte da 2 volt sin arrivare a... adesso cosa non ho gli occhiali, aspetta un attimo che lo controllo meglio, datemi un secondo. Perché devo invece che lo vendono un alimentatore così grosso, Fusaro? Alimentatore. Non lo so. Che poi quelli che vengono senza strumenti a me non piacciono, lo dico la verità, a me piacciono solo con gli strumenti. Che affa? Così lo vendono me. Adesso, un giorno glielo chiedo, mi è sceso un raggio. Perché sono alimentatore da 30 ampere, cazzo, due buriaca, 200 euro. E sono fuori di gabbo. Non è possibile, no. Vabbè, quelli ci hanno trasformato all'interno, è diverso da quelli che prendiamo noi, Giuseppe. Sono molto più pesanti, meno pratici, però sono più duraturi. Oh Gianni? Sì. Allora, guarda, questo alimentatorino che poi stavo usando per alimentare l'albero di Natale, quello piccolo che metto qua, parte da 4,5, 6, 7,5 e 9 volte, poi arriva sino a 12. Paga. E ha poi a fianco l'interruttore della polarità, più e meno. Lo puoi far andare sia in positivo che in negativo. Infatti eccolo qui, dice, parte da 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 volte DC. Ma io l'ho messo a 7, non è che l'ho messo molti di più, andava, mi pare, a 5. E vabbè, però con questo hai il coso qui, l'interruttorino, no, che scorre, è tipo il microfono, quel microfono che ho io dentro, e ti puoi regolare la corrente come vuoi. E costa una fesseria questo alimentatore, ce l'hanno i cinesi. Ah, ecco, ce l'hai pagato. Ui, questo alimentatore qua mi pare ho pagato 4 euro. Ah. Comunque sono un bebellino con quella farina. Se riesco a trovare l'alimentatore glielo faccio. E raffreddano anche, quelle lì sono belle. Ehi, ma ne hai cose tutte le ventole? No, ne ho tre. Ah, perché sicuramente le vendono e voglio vedere in qualche negozio dei cinesini. E io ne voglio mettere una sull'attrezzo che ho dentro, adesso d'estate quello scalda. Lo so, ma vanno meglio quelle di computer che quelle lì. Eia, ma poi la staffetta gliela faccio io, in maniera che mi faccia dal dissipatore che me la spiri là il coso, il calore. Certo. Oh già, ma non ho capito bene, ma l'hai fatta brincare in aria una? No, non è brincata, tu, si è fuso il motorino, perché girava troppo. Dici di rumore ubriaco. Forse la zigzagante ne hai dato, lì è il gozzo, due lampere giuste, secondo che ventolare non le fa niente, perché, cioè provesse queste cose, ma secondo ventolare le c'è un fumo. Bomboli, ha fatto boom, ha fatto la ventolina, boom, no, boom non l'ha fatto. Cazzano. Ho detto, cos'è questo odore? È una cosa, sta fuggendo in cucina, corre. Ci avviare. Sono avvolgimenti piccolissimi. Io ce l'ho qua sotto la scrivania, quell'attrezzo che quando l'attacco diventa tutto blu e mi raffredda il portatile d'estate. Io c'avevo quella lì, si è spaccata, io ho recuperato la ventola, se la vuoi un attimo la do, non c'è problema. Eia, ascolta, sai che cosa dovevi fare per attaccarlo? Lo dovevi attaccare con la trilina. Ma con la trilina? Allora, prendi la trilina, prendi un bicchiere in vetro, perché in plastica non fa, se no te lo sciogli, un bicchiere in vetro che non usi, prendi, ci metti un po' di trilina dentro e poi gli metti un pezzo di plastica, se è trasparente è meglio, no? E la lasci stare tutto il giorno e tutta la notte. Cosa succede? La trilina si mangia la plastica e te la fonde, poi prendi un pennellino che poi oltretutto butterai perché non fa a pulirlo, e bagni poi con la sostanza che si è formata in pratica con la plastica fusa, le due estremità di quel supporto, e lo tieni e lo rincolli. Ma lo sai che lo salda? Ma non c'è bisogno, bastano quattro viti autofilettanti tra una letta e l'altra, metti le viti autofilettanti e te lo tieni, come è stato sempre fatto. E anche così, io lo vedevo dal carrozziere che c'era a fianco a noi, no? Lo sai, i fanalini che riparava, le plastiche che riparava con quel sistema della tririna. Sì, ma da voi come ti cagano le mezze lineare, cazzo, ti fate un fiato in casa che non si può usare, invece con le viti no. Oh, parlo del supporto del coso, il supporto del computer, per raffreddare il computer se quando si è spaccato. Sì, no, ma tanto ne abbiamo un altro, non c'è problema, abbiamo già un altro, quindi no, lo smontate e adesso vi recupero queste. Sì, quello sono quattro viti autofilettanti, un po' lunghette, non molto, tanto che ci sia da un pezzo, di modo che tenga. Oh, basta, fatelo io. E beh certo, anche perché per raffreddare quella cosa là per forza di computer ci vogliono, perché l'alimentazione la devi prendere da lui stesso già, hai capito? E se gli dai l'alimentazione a quelle piccoline da 13 volte e mezzo parte ventola, baracchino, lineare, in orbita e cantuè. No, ma io non gliel'ho data da lui. Io gli ho messo un trasformatore da 7 volt. Ma era troppo. Io l'ho letto che era 5, ma non ce l'aveva 5, doveva 7. Ho voluto solo provare per vedere se durava, l'ho lasciato un po', si è detto Ruviaco e non la giocava. Hai provato, non è andata a pazienza. Comunque sono silenziosissime quelle lì. Sì, ce li ho, sono silenziose veramente. E in più c'erano le luci blu. Eia, no, poi la cosa comoda è di quell'apparecchio lì che mi tiene poi il portatile e un po' coricato e viene un bel bene a scrivere. Pagappa. A me me l'hanno già attaccato il portatile, perché l'altro non sta più funzionando, non accende più. Sai dove lo devi portare? Hai visto dove c'ha la paninoteca, quella che c'è vicino al coso, al tribunale, dove c'è il figlio di quel nostro cliente. E lì appena più giù c'è uno che ripara computer, a poco prezzo, guarda, una persona onestissima l'ha portato anche il nostro ragioniere, gliel'ha sistemato ma proprio a due soldi. No, ma io questo qui c'è la gente che me lo controlla, ho amici che aggiustano computer e cose, quindi problemi non ne ho per quello. Per il momento se lo tiene così, perché la signorina scarica quello che vuole, gli mettono video, se gli mettono cose e continua a scaricare sempre. Quel computer che era una schigia, la fa diventare lento dalla roba che ci ha scaricato dentro. Beh, se è così allora il discorso cambia. Sta usando il nostro, adesso sono anche il nostro, vedrai. L'altra notte dovevo usare il computer io, stavo guardando il film al computer, ma dimmi tu, papà da te lo prima che non andi al televisore, c'hai DVD, c'hai... perché io ho tre apparecchi, in due, no? Praticamente c'è uno che legge le cassette e DVD. E l'altro che legge anche gli MP3, DVD, tutte queste cose qua. Quindi tu puoi immaginarti se non c'è la roba. Lo so, però già lo sai come sono fatti i figli, come sono fatti già, oia. Tanto. Filme nuovo non ce l'hai. E lo so che non ce l'ho il filme nuovo. Ma i film l'hanno noleggiati loro. E quindi il DVD lo poteva sempre mettere, cosa vuol dire? Beh, se hanno un letto sì. Che bisogna stare molto attenti che sta girando il troia con quel capo di virus brutto. Che già io l'ho beccato e almeno c'è l'antivirus, l'ho messo in quarantena, l'ho tolto subito. Però bisogna stare molto attenti. adesso prendono dei computer, tanto se voi sei soli, che non prendono più virus. Lo so, con un altro sistema operativo. Questi non entrano più, e vedrai che gli hacker riusciranno anche in quelli a entrare. Quello è sicuro, quello è poco ma sicuro. Beh, signori, io adesso vado, mi faccio una bella doccia, mi preparo tutto bello bello per domani, che domani si ricomincia, se no poi tra farmi doccia e tutto quanto mi si fa tardi, dai. Ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Luca, se ci sei ancora, e ci sentiamo presto, dai. Magari nel caso ci sentiamo domani sera. Ciao Giuseppe, stai bene, buon rientro. Domani fuori sì. No, domani sono qui a Sassari perché domani ci sono le sorprese, che devo consegnare un po' di documentazione ai ragazzi, documentazione nuova che è arrivata, e domani gli viene un colpo. K. Andare. Ci sentiamo, ciao Giuseppe, avanti entro. Ma Luca non c'è più. Sì, ciao Giuseppe, buonanotte, mi sta ascoltando questa roba su Facebook. Mi sto ascoltando, sto leggendo qualcosa da qua. Già, ti auguro che il computer è tuo, sicuramente ha preso qualche video, se non ha accettato con molti voli. Non lo so, comunque adesso rimane fermo. Non me ne ha fottuto un dove c'è sempre più nella baetta. Io l'altra volta l'ho fatto formattare, tutto canto, andava bene, era una scheggia lui. Comincia a scaricare canzoni perché deve provare quando deve andare nei posti a cantare, eccetera, eccetera, e quindi si scarica tutte le canzoni. Allora io ho un amico, bravo, molto bravo, ma lo conosci anche. Se lo conosci pure, no, lo conosci. È amico tuo, penso, è amico Natalino. E veramente Antonello è amico mio, poi Antonio Natalino l'ha conosciuto anche lui. Antonello Denti ci sta dicendo. Capo. E a voce. Lo conosco, se sono stato in greffa con lui tutto quanto, siamo amici proprio da vecchia data. Tu l'ha fatto lui a me. Ha fatto un pezzo con l'amico, lo ha fatto disonesto, la verità. Solo che ai miei amici bene di più, dice, ma se tra te va bene, ti faccio un pezzo buono. Poi se per amici tuoi, allora questo cambia. Lo sapevo che avevo 50 euro, la forma adatto, l'ha salvato tutti. Tutto l'ha salvato, tutto. Doveva salvarsi. 50 euro forma adatto e gli ha messo un Windows 7. Cappaga, serve. No, Antonello già è bravo, che ha il computer, però pensa che Antonello era CB, anche lui, si chiamava Lucifero. Rosso. Qua Rosso, ma a me la verità, io quando mi ho fatto un pugno non andava più, proprio non ho rotto la disc praticamente, si è inchiodato. Non si sapeva se era quello o meno, poi io prima di comprarlo abbiamo portato tramite un amico, ha portato se era un amico suo, che lui non gli prende niente, anche se lo deve formattare mentre si stava operativo. Lo fa perché lui sì, per passione, questo qua. Poi lo fa gente che conosce ovviamente, no? Tramite sempre questo amico mio. E mi ha detto, guarda, che è sicuro al 100%, no, al 1000% che la dischi sul rotto, perché ci ha messo il dischetto, l'ha fatto partire tutto quanto, e praticamente un suo disco non si vedeva, non esisteva proprio la dischi, non c'era, morto, tutto era morto praticamente. E niente, ho preso questo qua, la dischi da 300 giga, ma se si stava operativo lui, sto quarto, la grande, non riuscivamo a farlo partire, a me che si stava operativo gratis, non ce l'ha fatta questo amico. Questo amico però non è bravo, non è molto bravo, lui si arrangia, comunque abbiamo altre cose, magari pulizie così, altre casatine così è bravo. E dicevo, tanto è, non l'ho fatto, e lui ci ha fatto partire. Beh, Antonio lo fa anche i sintomi, lo sai, fa tutto, fa siti per le ditte, eccetera, eccetera. C'è di noi che si va, è stato in Inghilterra tre giorni e si è fatto 1500 euro. Ma che cosa? Ma per quanti siti? Sì. Una ditta praticamente che c'è a Sassari, che però praticamente è una ditta inglese. E hanno chiesto se facevano sito, perché gli ha parlato che gli avevano fatto il sito qua, gli aveva fatto Antonella, gli ha detto se era in grado di farli, che di mandarlo, di andare con lui, che aveva viaggio pagato, roba da mangiare da soggiorno, in più gli hanno dato tutti i siti. Vabbè, ma è bravo comunque. No, è bravo, diciamo che a problemi di vista quello si fa molto bravo. Sì, a problemi che la cieca non ci vedeva più me. Anzi adesso ha acquistato un bel, anzi è ben contento. A un occhio vabbè non ci vede più. Ma diciamo che all'altro occhio ho acquistato un bel di vista. Maestro casuale, leggo le targhe, è tutto contento, ma è tutto sorridente. Meglio, no, è molto bravo, già ad essere sincero. Ma non c'è lui, siamo un panico, ma se ti faccio un prezzo buono. A me Antonello me lo fa anche gratis, non è quello il problema. È una specie di punizione che vi sto dando, perché gli ho detto di non scaricare nulla nel computer, di metterlo su un dischetto e poi cancellarlo dal computer, invece sta caricando sempre di più, scaricando sempre di più, perché lei canta e quando deve andare si deve preparare la canzone, se la prepara a casa, se la cerca, se la fa, se la canta. E se lo usa per, diciamo, per fare queste serate. Non ho capito, noia. Vabbè, ma non riesco a pagare lì. Con i soldi che hai detto, sei con sai, vado a pagare lì. Cosa devi fare? Cosa devi fare? Sono stufo di aggiustare il computer. Già tre volte, adesso basta. E l'ho detto, se non si faccio un'altra volta, da arrangio. Lui sta usando il tuo. Si sta usando il mio adesso. Però se lui faccia lo vede. Anche adesso non lo sto usando, ma poi stanotte mi serve, perché lo uso adesso per dire domani e dopodomani sono libero, quindi stanotte posso usarlo anche sino a Natale, non me ne ha fatto nulla perché non devo fare nulla domani. Anzi, devo andare a fare le analisi, però sino a quando apre quello del latte dolce, che ho fatto l'esame del sangue, la LASP. Fatto l'esame del sangue lì, devo ritirarla, e quando ritiro quella non posso fare nulla perché devo portare quelle analisi lì e poi farne anche altre. Carino quel cagnolino che hai messo già. Bellino, no? Lecca, lecca, lecca. Cappa, cappa. No, invece qua a casa c'è un'altra regola già. Ognuno c'ha il suo. E se lo rompi ti attacchi, hai capito? Ma anche a casa lui non c'è il suo. Manuela stava usando quello grande, se ne è appropriata, diciamo, non è che l'ha dato nessuno, perché quello era di tutti. E lei se ne è appropriata perché da quando abbiamo comprato il portatile io e mia moglie ce lo usiamo noi. Io e mia moglie usiamo il portatile, ma il portatile non si è mai fermato, sia ben chiaro. E praticamente lì stavo usando l'altro. Gappa gappa. No, qua è così. Qua se tu non verrai hai finito. No, poi ognuno c'ha il suo, cioè proprio non rubichi, cioè quello di babbo non lo prendi proprio, bisogna, non è che ti sei buono in greco. Vabbè, io sono più elastico con loro, se ce l'hanno rotto prendetelo, non c'è problema, però poi quando c'è a me me lo devi dare. Ma qua no, non funziona. Proprio se ti serve per quei 5 minuti a vedere una cosa, sì, ma non più di chiso, perché altrimenti no, nulla. Perché poi te che l'hai fasciato. Io l'altro giorno sono riuscito a farlo ripartire, ha funzionato tutto tanto, adesso non accende più di nuovo. Secondo me è roba di figlio, adesso devo controllarlo perché non mi sembra, mi sembra un po' strano che non funziona. Boh, sei entrato anche il virus. Io sono risolto. Su quello che scaricano, poi Marco ha imparato, ha trovato un sito dove si ti dicono come si fa per fare le password, e ha beccato la password di Emanuela ed entra a scaricarsi la roba di Dragon Ball, di quella roba lì, chissà cosa ha combinato. Sì, anche per quella già bisogna dare molta attenzione con queste cose. Stati ci vuoi, grazie, che ultimamente ho sentito troppi casi strani, che cioè, è un casino, sì, ma c'è sempre qualcuno, quando c'è Marco, al computer, a parte che Marco gioca solo con i vale dove sono i giochi, oppure guarda i film di Dragon Ball, questa roba qua, non è che va da altre parti. E poi o c'è Emanuele in cameretta con lui, o ci sono io, o c'è mia moglie, quindi già controllato, non ti preoccupare che non, è, non ci vai in siti che non può andare. No, non sto dicendo quello, purtroppo già è capitato anche qua, che si annidano, hai capito? Ce lo so, ci si sono tutti questi spidufili in mezzo al chat, ad esempio. Pedofili, porno pedofili, insomma lì c'è niente poco raccomandabile, ma già l'hai visto quel pezzo di casa di cosa ha fatto? Oh, un pezzo di merda. Quindi pedofili, Antu, come fai a fidarti? Prima dicevi va, ti mando all'oratorio, almeno sei ritirato e non andi in mezzo alla carrina, allora che ti mandi all'oratorio ci sono i pezzi che li violentano, ma te ne vai. Ho sentito già. Quanti anni ci ho fatto io lì? Ho fatto l'infanzia. Ma prima era diverso, ti pare che di chi si cosa non si intendia. O si vergognavano a dire certe cose, oppure non esistevano, non lo so. Io tanti anni ho passato, ho fatto lo scout, allora ho fatto il chierichetto, ho fatto il lupetto, ho fatto lo scout, ho fatto l'esploratore. Quindi in chiesa ci sono stato, ne ho passato anni in chiesa. Eppure a me non mi è mai successo una cosa del genere. I preti sì, ci sgridavano, ti dicevano quello che dovevi fare, ti inquadravano. Quando facevo lo scout ci facevano fare anche i mobili, mi hanno detto. C'era un prete che era loro facendo mobili, facendo queste cose, ci insegnava come fare i mobili. Diciamo che facevamo gli sgabelli, tutte queste cose qua. Anche un mobile avevamo fatto grande per metterci tutti gli attrezzi, tutto qua. Ma insomma, era una cosa bella, ci facevano giocare, fare i campi che sarebbero tipo campeggio, là, campeggio scout. Insomma, ma mai mi sono successe queste cose, a te Luca. Computer, stai attento. Vabbè, ci sono tante cose. Aspetta un attimino, ecco. Dobbiamo fare pulizie, a proposito di pulizie. Vediamo un po'. Aspetta. No, tanto il ginocchio oggi mi fa male quello che mi ha operato. Va in oramma, era tutto quanto mi seguo. In caso vende. Però boh, non lo so, ma secondo me si sta sbagliando, no, non portare i ragazzi a fare sport, tutte le cose che facevamo noi. Sarò, non lo so. Tu Marco ha fatto piscina sino all'anno scorso, lo sport lo faceva. Sì, l'anno scorso ha fatto piscina, poi si è ammalato e aveva la febbre, cose, non è voluto più andare, e poi da lì non ci è voluto più andare lui. È molto ciabattone Marco, non li piace di stare fuori di casa. Io sono il contrario. Ma sbaglia però, perché bisogna andare. Vedi da lui. Lui dice io faccio un bediore, tra l'altro c'ha anche ragione, perché lui fa orario continuato, esce alle 4 a scuola. Dopo doveva andare, appena si va a scuola andare subito in piscina. Faceva piscina, si faceva la doccia, poi doveva tornare a casa e farsi i compiti. E alla fine non ve l'ha fatta più. Lui diceva, papà, io sono troppo stanco, non è che non mi piace, ma troppo stanco sono. Grazie. Oh, erano qualche volta di pazzia, qualche volta con... Ah, fanculo, io. Ma il fatto che tu paghi tutte le volte che va, anche se non ci va, ci paghi lo stesso. No, ma io andavo, cioè, a fare le cose. Ma così cosa ce l'ha fatta è andato. Manuela fa canto, fa altre cose, non è che io li posso obbligare a fare quello che oramai c'è una sua età e quindi decide lei cosa fare. Ma ha fatto nuota di lì. No, io praticamente prendevo i compiti, ma devo servo a fare qualcosa. Ui. E anche tu, però se non studi poi hai quello che hai. Manuela, sia Manuela che Marco sono tutti e due bravi a scuola, non posso dire di non studiare, sarebbe contro il mio modo di pensare, dire di non studiare. Chiappa. Eppure qualche cosa l'ho studiata anch'io. E vabbè anche tu. Ma diciamo che poi va a finire che quando tu non studi, già non lasci applicando studi, di lavoro. Figurati quando non studi adesso. Prima era diverso. Eppure io lo studiavo, sto capo le cosce alla professoressa. Pierino la peste. Luca. Inteso era tu. Ha detto che anche lui studiava, andava e toccava le cosce alla maestra. Cacciole. Pierino la peste. E non ha combinato un po' che cura. E siamo invece andati a studiare, andavamo a far casino, Antonio. Così è. No, ma già studiavo. Qualche volta quando ero calmo. Okay, mi ha tanto che veniva ferrato. Di follia butta per la maestra, dice cosa stai facendo Antonio? E ho buttato carta alla finestra, lo sai che la carta non si butta alla finestra, che se è nata solo carta, tutto il gatto sciupiato. Tu ci vai cucaccioliga. E raccontale a Luca come facevi il caffè, Antonio? No, una volta ce l'ho fatto. Praticamente anche il tomato ribare di... mi piaceva freddo. Allora io ho sempre stato, ho preso un bicchierino di tazzina di caffè, ho preso, ci ho pisciato dentro, gliel'ho messo in mezzo, è andata bene. E ha detto, buono questo caffè, non buono. Adesso ci ho pisciato dentro, tutti canti di cazzo, puttando proprio. E io correndo, ti sto fermo, disgraziato! Sotto il banco, maestro Piero, arrabbiato. Io mi ammetto che per Paolo, quando era acceso con me, faceva servizio insieme. Una volta l'hanno chiamato del cura, si venga subito e mi rialza e suo figlio ha combinato la di su e mi lamento sempre, si è stato detto, ma chissà cosa ha combinato oggi. È una scena. No, io, allora, la cosa che ho combinato io a scuola, lo ricorderò sempre, secondo me è elementare. c'ho la tuta nuova, sai, le tutte che c'erano, come dire, Marca era, ma tu un botto, secondo me 30 anni fa, so, di 20 anni, vabbè, comunque sia, non mi funzionava più la penna rossa, una penna di quelle non normali, di quelle con inchiostro, si vedeva l'inchiostro, un po' particolare come penna. E lei sta dettava, no? Io non la scrive pure, ma maestra, non scrive più la penna. Come non scrive più? Non scrive più, non va, non via. E mi diceva, ma questa penna, inizio a uscire inchiostro, mi sono avuto anche da tutto il mondo. Ma non è che mi ha avuto la maestra. Ma di quelle scenografiche? Di quelle ci vede, sono un po' strane, come? Quelle costano una cosina in più, dai. Quelle lì, sì. Sì, quella senza cartuccia che si aspirava col pennino l'inchiostro, c'era una specie di stantufo, tiravi l'inchiostro con questo stantufo, vero? No, sono di quelle penne che vedi l'inchiostro già rosso, sono strane, non è tipo la Bicchi, no, assolutamente. E se tu la rubi esce l'inchiostro, no? Perché c'ha un foro laterale. Non so perché cosa so, quel foro lì forse per... non lo so, ti dico la fesseria. Comunque, non vendo, ma no, questa appena praticamente non andava, non ce l'aveva più nell'inchiostro. Allora, come mi sono messo a scuoterla, no? Tutto l'inchiostro addosso a me, tutto il muro, diciamo, picchiato lì, mi ha fatto mettere le mani sulla cattedra, mi picchiava con questa secchetta di bambù, mi sembra, a mano. Maria, vera, la maestra Masa la mura, me la ricorderò sempre. Se l'aveva presa con questo Pala Giuseppe, che era a scuola con me, diceva, patatone, ne infatti questo qui era un po' cicciottello, no? Un po', aveva le guance a palla. E patatone, i compiti li hai fatti, che se Maria la trincia bue, ma hai visto la trincia bue? La trincia bue? Sì, quella maestra cattiva che fanno vedere al televisore nei film. No, non ci ho fatto mai caso. Questa qua si chiama Gianna Ruio, passa in pensione. Sì, quella che di cosa era già mussa, era già vice da allora. C'aveva due vizi, c'aveva le zema nelle mani, stava sempre con quest'alcol, fiaccandolo, mettendosi nelle mani perché gli faceva venire prurito. E ci mandava lui a prendere l'alcol e il cotone, la segreteria. Da voi si buttava tutti i rimani per la pazzia che te lo riducava e ce la faceva buttare a nudo. Questa maestra era Mara Ghirurraio, mammara me. C'era questo Pala Giuseppe che i genitori lavoravano tutti e due e quindi molte volte probabilmente era impossibilità di farmi fare i compiti, a seguirlo. Un giorno gli ho detto, Pala Giuseppe, fate i compiti, e lui, no signora mai, mi devo scusare perché i miei genitori stavano lavorando, io ero da nonna e mi sono dimenticato la borsa a casa. Patatone che non sei altro, sei, oltre che essere patatone sei anche un asino calzato e vestito, questo l'ha fatto rimanere, non vedi mai, mi ha fatto mettere le mani sulla cosa, sul banco, gli ha dato due colpi di bacchetta che ci aveva lì sempre in mano, perché segnava quando nella lavagna, nei tabelloni, no, quando ci spiegava la geografia, cosa si segnava con questa bacchetta che si aveva bruciato di cuore praticamente. Fatto sta che questa maestra qua ce l'aveva con questo Pala Giuseppe, lo faceva che la meno, un giorno l'ha presa a schiaffi davanti, ma a schiaffi Barolo, blu, questo qui c'era, io me lo ricorderò, se lo vede di strada me lo ricordo, perché mi è rimasto troppo impresso, era Mara Ghirurraio, ti chiamava la lavagna se non sapevi la cosa, erano i giaffi, ma forse, e usava la bacchetta, la tirava alle spalle, dove ti capitava? E poi, no, questa qua era cattiva. Era cattiva, picchiava altre persone anche. E vabbè. Già, comunque si va a ripetere questa, no? Non apri io così facilmente. Poi ti mette in punizione, boh. O ti va a esci. Sti non ti va a entrare la macchina, tu non ti va a andare la macchina in bagno. Ma no, grazie grosse, però non ha avuto pane per i suoi denti anche. Allora lo sai. Secondo chi trovi? Quella che io ho un'amica che insegna, e a Porto Torres, mi ha detto che è uno schifo, che c'aveva una scuola delle sattili, una classe che aveva tutti le sattili e cose del genere. E questa qui gli ha detto, si è provata a dirgli alla maestra, ha chiamato il padre per dirgli, ha detto, se gliel'ha detto vuol dire che è vero, figurati bene, dice il babbo di un figliolo. Sì, a me mi hanno raccontato quelli che c'erano l'età tua, come babbo e cose. E qua quando prendevano bacchettate, poi la macchina faceva anche boom. Ma che boom? Si bruciava la macchina. Sì, a partire di qualcuno gli era fatto scherzi brutti ma pesanti. E prima c'era il clima qua. Era lì la scuola dove ci sono i fritti, ma picchiavano perché prima erano così, i ragazzi si prendevano pacchettate, ma pur uesi, gnogno. E vabbè, ambiti diversi sono. Allora, c'è una vecchia canzone che tu te lo ricordi, qua quando scendevano un mezzogiorno, anche il tram, la pattuglia, eccetera, eccetera. Arrivi alla pizzeria. Via! Pietre! Una scarica di pietre, di tutto batti al ruacone. Un vedo, un di e un di. Dove dopo? Prima qua la Tedolce era così tanti anni fa. Quanto mi hanno raccontato, infatti hanno fatto pure la canzone. Sì, se andavano a resta a Usi, buoniano tutti i palazzi di Vera, ostacolavano la polizia facendo l'arresto, li picchiavano, li sfasciavano i pezzi della macchina, e a Ruglia che non sentito. Ma qua non ci scendevano, cioè era molto difficile andare a prendere uno, perché come ti presentava venire la strada, da tutti i campi di parte battiano e io ho visto che si sono presentati e più di una volta abbiamo fatto i servizi insieme alla polizia. Una volta ne ho fatto uno di servizio in piazza dei studi, questo qui aveva tirato la pietra in testa alla suocera e poi se l'aveva regata sopra a casa per non vedere nessuno, no? Fatto sta che ci chiama il 113 e ci ha detto venite subito, però aspettate che entriamo noi prima, perché l'ultima volta ci hanno buttato lo scaldabagno sulla macchina. Siamo arrivati, c'era una pozza di sangue, un po' di gente e nessuno sapeva niente di che cosa era successo. Abbiamo chiesto se a noi della polizia, cosa è successo? Ma non lo so, stavo guardando, e cosa stai guardando? Il sangue stai guardando, quello che è successo non lo sapete? No, non sappiamo. Poi sentiamo questo grido, saliamo sopra, ragazzi, è svenuta una donna, ma è svenuta per quello che aveva visto, non perché avevano tirato. E ha detto che gli avevano tirato un cantone in testa a questa donna, gli hanno sfondato la testa. Siamo saliti su, che abbiamo seguito il sangue. Siamo saliti su e non ci volevano far entrare. La polizia ha dovuto sfondare la porta, siamo entrati, ci aveva ciappato la ciappa, ci aveva messo la bella di sangue. Avanti lu. Eia. Vabbè, comunque. Che palle. Casino, ma avete pagato la concessione già? E io l'ho pagata al 3. E io l'ho pagata, aspettano. Veramente me l'ha pagata un'amica. Ho trovato questa amica, poi l'ho trovato, ho detto questa è andata un bel caso alla posta, lui mi ha detto sì, va bene, un piacere, non lo faccio, certo che te lo faccio, ma devi pagare qualcosa, sì, le ho dati, soldi, poi me l'ha portato in negozio, il resto con la bella mossa. non la vado a pagare io, già. Adesso vediamo. Minimo un po', se lo aspettano, la pagare a gennaio, a febbraio, a marzo, no? Entro il 31 gennaio devi pagare. Ah, sono scale, è vero. Se no ti scade la concessione, non hai più concessione. È vero. Già c'è qualche, quanto ne abbiamo oggi? Il mio cuore si commuove. Allora già. Ho detto no, figlio, il mio cuore si commuove. Vero? Vero. Ma che intendi? Tu hai detto no, e io ho detto il mio cuore si commuove. Ah, non l'ho capito. Euro non mi ho nemmeno nominato. Comunque è aumentato, lo sapevate, sì. Ma va. Ehi, a 30 si paga adesso. Ma va. Ma va. Ma è un cazzo di male, allora non ne pago più. Vai, giocavo fuori. Ma insomma, non l'avevo detto. A pagare, no, no, è sempre lo stesso. Perlomeno. Non abbiamo avuto diverse comunicazioni, quindi. No, se non vado a mancare non ne pago più, non sacco tutto. Ma 15 euro vanno più va bene, ah, so che è troppo. Quanto? 15, 13, 12, volte boh. 12 euro, più le spese postali. 15 euro, là, con la spesa postale. Vanno bene, ah, so che è troppo. Se fai tutti, tu avevamo 15.000 lire, adesso paghiamo 15.000 o sono 30.000 lire? No, 12 euro, 13 euro a metà, non di più. Già lo so, sto scherzando. L'anno scorso avevo tolto la voce che si pagava 100 e passa euro, che io non ne pago più, non ne pago più, sono usato nel dubbio. No, se non aumentano, vedo che ha condotto una fittinuta. Vabbè, quello diciamo che una tassa così annuale, no? Non gliene importa nulla. Infatti lo fanno così, lo fanno così. Loro non guadagnano certo dalle restrizioni. Capo, però se non verrai passi guai. Beh, certo. Qualsiasi momento, però si paga, ma in qualsiasi momento se non ce l'hai ti rompono le palle. Visto che sia così, c'è una legge che deve rispettarla, non è che ognuno fa ciò che vuole e fa quello che gli pare. Raga, tira bronca, sai, non ti dico io, va, la paghi e basta. Paga. E illo. Almeno c'è un po' di compagnia quando usi il computer. Ora già. Almeno hai un po' di compagnia. Di compagnia. Quando usi il computer che parliamo e cose ti fa compagnia, no? Sì, vabbè, già detto, ma se inizia a aumentare, io non ne vale la pena, perché si vive. Almeno se aumenta lo tutela. Però un po', no? Quello che dici? Quello non può le balle, mentre venire, vedo un po'. Lui lo sai cosa c'è? Quello che mi preoccupa a me è che devono fare una famosa della finanziaria. Secondo che Gambo Savane è da ruineggia, Cioè? E che devono rivedere tutti gli aumenti di tasse, di questo, dell'altro, acqua, luce, tutte le cose da dove guadagna lo Stato. Allora, per chi non ha capito bene, la devono rifare perché ci sono troppe cose, cioè se ne stanno approfittando troppo. Allora, siccome ci sono troppe pigliate per il culo, ingiustificate, allora devono vedere un po' di cose. Ecco, la rifanno, e la rifanno sempre a favore loro, anche tu, mica a favore tuo, stai bene così, se la pensi così tu. Non è che la penso così, no. Qua bisogna muoversi, perché qua se non ci si muove e se non fanno qualcosa, qua cazzo ogni giorno che passa la prendiamo nel di dietro. Ci sono cose, sta andando, le cose stanno andando sempre più grave. Quindi bisogna vedere anche tutti questi, per esempio la benzina, tutti questi prezzi ingiustificati. Il ministro si è lamentato un po', questa cosa la farà finire. Cioè, adesso ultimamente il prezzo del barile è abbassato, la benzina aumenta. Oh, adesso basta, veramente ci vuole una svolta, ci vuole. Anche perché a noi personalmente che lavoriamo sul gas, si sta rovinando quest'anno, a confronto all'anno scorso, abbiamo venduto il 30%, il 40%, il 30% in meno di bombole. Guarda che non sono mica noccioline, Cioè se non ci si mette in testa di fare qualcosa, se no che andiamo male. Tu le bombole si vedono di meno perché hanno fatto le stufe a pellet, hanno messo il gas della Medea, eccetera, eccetera. E molta gente si appoggia a queste cose qua che la fanno risparmiare. Sono convinti di risparmiare col pellet. Certo, ma qua è una cosa gravissima, cioè noi siamo messi a culo a terra, quest'anno è andata male proprio. Come si fa? Cioè siamo a culo a terra siamo. Cioè, grazie a Dio ce l'abbiamo cavata perché anche ha fatto un pochettino di freddo, però non abbiamo più venduto le bombole che abbiamo venduto quando un anno fa, due anni fa, cazzo che lavoravamo come dannati. Quest'anno abbiamo lavorato tanto, però non più come prima. Cioè, sino oggi non si fa di qualche cosa, c'è anche sui carburanti, sulle cose. Cazzo, non che andiamo male. Ma comunque io quando lo vedo ci credo, quando fanno qualcosa. Adesso non ci credo, perché anche io, secondo me c'è tutta una manica di pagliacci. Ma pagliacci vanno a farsi belli, vanno a farsi grandi, ma ancora non hanno fatto, scusando la frase, un cazzo. Ancora le cose sono così. Quando lo vedo ci crederò. E già, solo sto parlando. Chiappa, non mi hai seguito il discorso? Chiappa. Ancora, non, però ancora, sono solo parole, ancora non ho fatto niente. Io sto pregando che ci sia una svolta, perché sennò andiamo proprio male. Tu, ma hai visto cosa è successo? Cos'è in Tunisia? Cosa? Hanno fatto la guerra per l'aumento del pane e queste cose qua. La guerra ci fida. Beh, l'aumento del pane è certo. Ma io non che aumentate più, ma purtroppo quelli sono paesi così, ma qua altro che aumento del pane, qua stiamo parlando di cose gravi, molto gravi. Vabbè, se state qualche altro paese ci avrebbero già fatto calzare la mano un piano. Chiappa, cioè, qua in Italia abbiamo dei fatti gravissimi, cioè. Stiamo pagando tutti di più e ce la stanno mettendo di dietro. Ma tu, hai così, più andiamo avanti e più ci stanno fregando. No, stiamo scherzando. Mi stiamo scherzando, ma ci portano al punto di rimanere anche senza pantaloni. Sì, se non succede qualcosa, che non si mettono le cose a posto, qua andiamo veramente male. Se sembra così, ma ogni giorno che passa sta sempre peggiorando. La gente per campare la famiglia è costretta a fare fatica, perché ogni giorno che passa tu leggi, non apri il giornale che non vedi che hanno fatto, che hanno preso, hanno rapinato quello, magari pure per 1.000 euro, hanno rapinato quell'altro. Stiamo ritornando agli anni che furono. Già. Ma non c'è uno schiaccio. Scappa, ti sei drumente. Io c'era anche un carro, fallo ripeto. Anzi, lo so. Tres Muertos. Con Cantor, mio padre lo vuole sapere, noi stiamo qua a parlarne, a discutere, a incazzarci, ma non facciamo mai niente al di fuori. Se una cosa non ci va, dovremmo avere il coraggio di andare e dirla tutti insieme. Per dire, la moce la benzina non ci va, tutti quanti dobbiamo fare sciopero, via, tutti a fare sciopero e bloccare le strade. Andare a Montecitorio e spaccarle tutto. Vorrei che interveri, che si faccia l'intervento di qualcuno, perché non è possibile più andare avanti. Cioè, le prese in giro basta adesso. Purtroppo tutti ne approfittano. Ognuno tira la cosa sul mulino e noi a pagare. Ciao. Cioè, molte cose a me mi fanno solamente che ridere, basta. Non voglio manco commentare, cioè, so solo che sono, cioè, ci sono alcuni che sono, cioè, alcuni nel governo, ma oltre il governo, tanti che comandano, che sono dei pagliacci. Tirano l'acqua loro un mulino, ma tutti quanti sono così. Chiappa, anche nelle grosse ditte, nelle cose, cioè, chi domanda di fare la contraffazione perché sta vendendo di più, cioè, chi domanda di peggio ancora, cioè, si sta vendendo in un'era di pagliacci. Io lascio perdere, va. Davvero? Chiappa. Purtroppo è così. Quando lo vedo che ci sarà una volta, ci credo. Sarò contento pure io. Beh, ti stai dormendo già? È stanco, sono anche stanco. Non bella. Ti saluto. Ti saluto. Ci sentiamo domani. Ok. Buona notte e buon trabacco per domani. Ciao. Buonanotte.